140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Cinema e musica nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Terrazza Martini, Milano. Mi rifaccio vivo. Un uomo in crisi si uccide, ma ha un bonus per tornare in terra. Una commedia con Emilio Solfrizzi, diretto da Sergio Rubini. Io ho in mente, evidentemente, di fare un film sulla riappacificazione, sulla conciliazione. Mi sembra che, diciamo, nell'epoca globale in cui con un click si può essere dall'altra parte del pianeta, sia fuori del tempo pensare ancora di costruire recinti e steccati. È arrivato il momento di dialogare anche con il nostro nemico, e il nostro nemico va conosciuto, anche perché spesso e volentieri dietro il nostro nemico si nasconde un possibile amico. I nemici ci fanno paura perché spesso e volentieri non li conosciamo, quindi bisogna arrendersi alla possibilità di conoscere l'altro. Il mio film racconta un capitombolo incredibile, perché, diciamo, da un antagonismo sfrenato che addirittura produce un suicidio, poi uno, grazie all'opportunità di ritornare sulla Terra, scopre che invece, appunto, dietro il suo miglior nemico c'era il suo migliore amico. Questa storia, talmente, diciamo, appunto, questa capriola, mi sembrava che non potesse essere che raccontata in commedia. E quindi sono arrivato ai comici. È un film che poi nel finale, diciamo, anche una nota positiva, perché penso che in questo momento un finale positivo sia un atto di coraggio. Bisogna in qualche modo indicare una strada per venire fuori dal tunnel. E la scelta del fantastico oltre alla scelta della commedia, come mai? La scelta del fantastico è un espediente. Il cinema si serve di tanti mezzi per poter raccontare. Diciamo, poi il cinema riesce sempre, da sempre, splendidamente a raccontare non solo la realtà, anche ciò che invece sfugge, la realtà, l'irrealtà, ciò che sfugge al primo sguardo. In questo momento, soprattutto, in cui la realtà viene, quando viene raccontata bene dalla televisione, può essere fotografata splendidamente dalla televisione, forse il cinema ha l'opportunità in più di raccontare non solo la realtà. Non si agiti, signore. Qui è tutto finto. Tutto quello che lei vede è soltanto una sua proiezione. Una proiezione? Lei è morto e questa non è la realtà. Si fermi! Mi faccio scendere, si fermi! Questo non è un taxi. Lei è morto e io la sto portando al centro di smistamento della sua circoscrizione. È chiaro? Insomma, si torna un po' al ruolo del cinema, di quella magia che ci serviva, che serviva tanti anni fa a evadere e a trovare una speranza. Insomma, siamo tornati un po' indietro in questo. Sì, guarda, tante volte si pensa che il cinema o comunque l'evasione sia un qualcosa di riduttivo, ma non è, invece no, perché nell'evasione, appunto, quando indichiamo una strada, c'è dentro l'indicazione di una speranza. Senza speranza non si va da nessuna parte, non si possono fare solo analisi, diciamo, pessimistiche su ciò che ci abbiamo intorno. Cioè, parlare solo del bicchiere mezzo vuoto è molto pericoloso, perché non solo si denuncia ma si paralizza la gente. Bisogna invece raccontare anche ciò che funziona, perché ciò che funziona ci emoziona e ci dà la forza, come dire, di reagire. E soprattutto poi bisogna mantenere la capacità di sognare. Sognare non vuol dire dormire, sognare vuol dire avere una visione e quindi avere un obiettivo. Se i poeti non avessero per anni e anni e anni sognato la luna, i nostri astronauti non ci avrebbero messo i piedi sopra. Dicevamo che il lieto fine è una scelta coraggiosa. In questo momento difficile per il cinema, è anche fare del cinema una scelta coraggiosa. Il cinema italiano ha vissuto un anno più difficile rispetto agli anni scorsi. Bisogna che in questo paese, diciamo, bisogna, speriamo adesso con questo governo, bisogna che, non bisogna avere paura di, come dire, della cultura, anche perché noi con la cultura dovremmo in realtà produrre PIL, però non se ne parla, i nostri politici non ne parlano perché poi temono che gli operai si incazzino, che le masse reagiscano pensando che la cultura siano corbellerie. Bisogna invece raccontare che con la cultura un paese come il nostro non può che produrre PIL. PIL e quindi ricchezza e quindi lavoro. Il nostro cinema si è un po' addormentato, il nostro cinema, diciamo, è un momento forse in cui c'è poca creatività, di nuovo ci sono pochi sogni, c'è la voglia di fare semplicemente l'ultimo film che è andato bene e di riprodurlo fino a quando a un certo punto poi non va male, come dire, il sequel del sequel del sequel del sequel, bisogna riavere coraggio, però penso che questa crisi, se non la viviamo come un solo, un qualcosa di terribile, ma come anche invece l'opportunità di ricominciare. Penso che da questa crisi, insomma, c'era il poeta Hölderlin che diceva: dove c'è crisi c'è cambiamento e dove c'è cambiamento c'è salvezza. Io non mi muovo da qui fino a quando non mi spiega le ragioni per cui mi spedite all'interrato. Signor Bianchetti, primo, si è tolto la vita. E poi mi dica, qual era il suo lavoro? Imprenditore. Imprenditori, capitalisti, padroni e tutte le categorie che prevedono lo sfruttamento delle classi inferiori ai piani inferiori. Ma stia zitto lei con quella faccia da Carlo Marx! Ma io sono Carlo Marx! Procedete! Come Carlo? Emilio, è un film fantastico perché abbiamo una persona che si suicida ma ha una chance dopo la morte, ma è anche un film in un certo senso immerso nella realtà perché il protagonista ha delle grosse difficoltà finanziarie, è un imprenditore in difficoltà, non si può prescindere dal mondo di oggi anche se si racconta una storia fantastica. Sì, è comunque una vicenda che non ha a che fare con il mondo del lavoro ma con l'interiorità delle persone. C'è una persona che è quella che decide di farla finita che attribuisce ad un altro tutta la responsabilità dei propri fallimenti. Quindi in realtà come dire, è talmente livorosa questa cosa, è talmente arrabbiato lui che anche quando ha la possibilità di tornare sulla terra per correggere i propri errori, i propri sbagli, in realtà lui ci torna con un intento delinquenziale che è quello di rovinare il suo antagonista Ottone Di Valerio, e lo fa incarnandosi nel suo amministratore delegato, mettendo in campo azioni che possano rovinarlo. La verità è che, come ho sentito dire più volte a Sergio, che è veramente questo un film sulla pacificazione, nel senso che è più facile vivere, come dire, inventandosi anche un nemico, perché i nemici aiutano ognuno di noi ad autoperdonarsi, ad autoassolversi. Invece questo è anche un film non solo sulla pacificazione, perché come dire, quando salti il tuo steccato e vai a vedere la vita dell'altro, ti avvicini all'altro, lo conosci, decidi di porti all'ascolto dell'altro, ti accorgi che lui ha fragilità, momenti di cadute, difficoltà, esattamente come le tue, per cui voglio dire, non ha quella vita che tu immaginavi. Ma è anche un film sull'assunzione di responsabilità, cioè dove finalmente tu fai pace con te stesso, perché finalmente ti rendi conto che se non è lui il tuo antagonista, la causa dei tuoi fallimenti probabilmente risiedono dentro di te. No. Oddio, il braccio, i capelli, non me li sento più, mi sento male. Tu ti senti male? Io ho sprecato gli anni migliori per te e io ho perso il mio lavoro per colpa tua. E allora io che cosa dovrei dire? A causa tua io mi sono suicidato, suicidato. E per chi? Per questo idiota, per un idiota che ha le crisi di panico. Lo so, non dovevo dirlo, ma non si può. C'è un'altra cosa deliziosa in questo film, è la presa in giro di alcuni cliché. Tu sei un uomo d'affari, ma di quelli che hanno un'interiorità spiccata, adori, mangi solo biologico, hai una forma fisica straordinaria. Quanto ti sei divertito a incarnare questo uomo perfetto sotto tutti i punti di vista, secondo appunto i cliché dell'uomo moderno e super naturalista. Esatto, non essendolo proprio nessuna delle sue, non ho potuto che interpretarlo, quindi me lo sono in realtà dovuto inventare, capito, un personaggio così. Ma sì, no, viviamo, noi è proprio questo il nostro momento che ci porta a esasperare qualsiasi cosa, e quindi si vive oggi ancor più di ieri di mode. Vai il sushi, tutti decine di ristoranti sushi, vai il biologico e tutti al biologico e tutti. In realtà io sono affascinato da quelli che veramente ci credono, da avere, che veramente, come dire, partono almeno da alcune convinzioni. Poi devo dire, a me piace il sushi, però essendo pugliese il mio sushi è fatto da altri tipi di pesce, capisci? E quindi voglio dire, mi sono anche divertito volentieri a prendere in giro un po' a questo modello. Insomma, a me piacciono le persone che un po' si sporcano, a me quelli che hanno sempre la camicia tutta stirata. Non riesco, sono talmente lontani da me che, capito, allora non posso che, cioè, posso solo interpretarli e non viverli. Devo dire agli ascoltatori che oggi è stiratissima. Ma no, perché me la sono messa 20 minuti fa, vedrai tra un'ora vedi come sono conciato. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. La musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Beda House, Milano. Sulle orme di Mary Shelley 200 anni dopo. Concept album e libro per Enrico Ruggeri. Frankenstein. Perché Frankenstein è in tutti noi. Il tema più interessante è quello dei confini che ci sono tra il giusto desiderio dell'uomo di avere un futuro migliore e la sua morale un po' disinvolta, che gli fa superare anche i confini dell'etica, eccetera. Tutti noi in qualche modo siamo schiavi della nostra ambizione, tutti noi stiamo rivedendo pericolosamente il concetto di morale e tutti noi spesso abbiniamo l'amore e l'odio in maniera complessa e tutti noi siamo, come dire, abbiamo un rapporto difficile con la diversità. Non solo la diversità fisica, non solo l'handicap o la diversità razziale, ma appena vediamo uno che parla in maniera diversa o che in qualche modo non ci assomiglia, diventiamo diffidenti. Cioè, i propri limiti sono anche uno stimolo per cercare di superarli. Nel momento in cui i limiti non sono quelli propri dell'uomo, ma sono quelli della natura umana, allora il discorso si fa più complicato, perché ci sono certe porte che non vanno aperte. Io sono normale, ma diverso dagli altri. Ho un'anima speciale che nessuno vedrà. Non so cos'è la tenerezza, una carezza non l'ho avuta mai. Ed ogni sentimento muore dentro, e così come voi nel profondo di me non conosco amore. Credo che chiunque scriva canzoni, libri o faccia qualsiasi cosa di artistico lo faccia anche e soprattutto per conoscere se stesso. Quindi è evidente che questo mi è capitato sempre nella vita, ma credo di non essere l'unico. Cioè, alcune cose di me che non mi sono chiare diventano più limpide nel momento in cui io sto scrivendo una canzone o sto scrivendo un libro. Questo credo sia un processo tipico dell'artista. Insomma, io non sono mai andato in analisi proprio perché la mia analisi è stata quella di scriverci delle canzoni, di liberarmi con delle canzoni. Io ho scelto intanto di meditare molto su questo disco, perché siccome ogni canzone doveva avere valenza propria, doveva essere perfetta anche per la storia di Frankenstein e doveva essere perfetta per l'uomo al centro del cerchio, che è il mio romanzo che c'è dentro, per cui veramente non potevo sbagliare neanche un aggettivo, un avverbio, una parola. Tutto doveva essere perfetto, almeno per me, per cui è stato un lavoro molto lungo. Se a questo aggiungi che io per ordine mentale ho deciso di registrare le canzoni e di finirle una alla volta. Oggi i dischi si fanno in un altro modo: fai venire il batterista, fai tutte le batterie, poi arriva il bassista e fai tutti i bassi. Invece io, finché non finivo di scrivere, registrare, suonare, cantare e missare il pezzo numero 2, non iniziavo a toccare il pezzo numero 3, per cui questo vuol dire metterci un anno alla fine. Io che alla vita sei nato e risorto, fa che non cambi mai nulla del corpo. Mio Dio delle tenebre, Dio dell'inferno, fa che il mio volto rimanga in eterno com'è. Tutto questo è assolutamente fuori dai tempi. Come l'ha preso la casa discografica, insomma, l'idea di fare un progetto che sia completamente diverso da quello che succede oggi? Allora, intanto va detto che io sono distribuito da una casa discografica, quindi in realtà, come dire, l'investimento economico non competeva a loro, e questo credo che li abbia rasserenati molto. Però il presidente della mia casa distributrice, che è la Sony, lui si chiama Andrea Rosi, un mio vecchio amico, ha sentito il disco e mi ha detto: questo è un album meravigliosamente fuori moda. E devo dire che l'ho considerato uno dei complimenti più belli che io abbia ricevuto. E la voglia di creare un progetto complesso tra libro, romanzo, come è nata? Perché mano a mano che lavoravo alle canzoni vedevo che c'erano tante cose da dire, tante cose da approfondire, tante cose che nel frattempo in questi 200 anni erano cambiate rispetto alla visione che aveva dato Mary Shelley del suo lavoro. Per cui ho capito che non bastavano le canzoni. E tenendo le mani mai troppo pulite, ho lasciato persone ferite, sparite nel viaggio. Quando volevo partire, quando morivo di nostalgia, quando volevo tornare, quando volevo cambiare. E la discografia oggi invece come la vedi, visto che tu hai scelto questa strada completamente diversa? Ma sai, oggi è un mondo in crisi, è un mondo in evoluzione, lo scenario è cambiato completamente, si stanno adeguando a quello che sta succedendo. Cioè, è chiaro che andiamo di fronte a un futuro nel quale il concetto di disco, il concetto di oggetto è destinato a soccombere. Andiamo incontro a un futuro nel quale non ci sarà più il possesso della musica, ma l'accesso alla musica. Questo naturalmente porterà molti vantaggi, ma nel breve sta portando grandi svantaggi, perché le case discografiche non hanno danaro da investire. Quando non hai danaro, la prima cosa che fai è non fai nulla per i nuovi artisti, se non affidarti a questa fantastica lotteria televisiva che sono i talent show, che producono grandi voci che vanno verificate poi nel corso degli anni con i progetti e con le cose da dire, perché poi quelli che durano 30 anni sono quelli che hanno più cose da dire degli altri, non sono quelli che cantano meglio. È un lontano ricordo, nel bicchiere vedo te, con lo stesso mio sguardo, siamo rimasti soltanto noi due, in questo mare ghiacciato del nord, in questo freddo silenzio che sa di eternità e di follia. Di solito in questi casi si chiede a un artista cosa consiglieresti a un ragazzo. Tu a tuo figlio cosa hai detto, visto che insomma lui si è imbarcato in questa avventura folle? Tra l'altro esce il suo album. Lui è un pazzo, cioè è un album ancora più difficile del mio, se possibile lo sentirete, cioè un disco che parla di filosofia, che parla di mitologia, è un disco complicato, quindi si è scelto questa strada piena di difficoltà che gli darà sicuramente grandi soddisfazioni interiori, non so come andrà. Però è evidente che sono una persona, un ragazzino che ha passato la vita ascoltando la musica che ascolto io, leggendo 3 libri alla settimana, non poteva che fare musica e non poteva che fare quel tipo di musica.